Nelle casse comunali di Bosco Reale, comune del Napoletano finora famoso solo per il dibattito intorno alle discariche, potrebbero rientrare fino a 2 milioni di euro di tasse non pagate. Ci spera il sindaco PDL Gennaro Langella, dopo aver stretto un accordo con l'Agenzia delle Entrate per il recupero dell'evasione fiscale. E ne ha buoni motivi, perché dal controllo incrociato fra dati del catasto sugli immobili e foto aeree si è scoperto che a Bosco Reale ci sono 1.200 immobili fantasma, villette, due palazzine multipiano, 20 depositi commerciali di circa 500 metri quadrati l'uno, capannoni, perfino un albergo di oltre 2000 metri quadrati con piscina e parco attrezzato. Alcuni sono lì da oltre 20 anni, ma finora ufficialmente erano invisibili. Un'evasione fiscale a parecchi zeri, un danno stimato in circa 500.000 euro annui, riconducibili soprattutto al mancato introito dell'ICI da parte del comune. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.